Dunque, buonasera a tutti innanzitutto. No, le viste sono belle perché si fanno tutte insieme, quindi l'aspetto collettivo, soprattutto in periodi come questi dove talvolta i dubbi sono più importanti delle certezze, sono preziosi. Tutto quello che ha detto Max è condivisibile, nel senso che anche nello spirito della rivista i contributi sono ciò che servono oggi per ragionare su livelli estremamente complessi da un certo punto di vista, quasi direi come mai nella storia precedente avevamo assistito. Io mi occupo in particolare di repubbliche ex sovietiche, quindi dal mio punto di vista, come dire, ho messo a punto dei punti di osservazione, scusatemi il gioco di parole, che in parte, come dire, partecipa completamente alla rivista e in parte se ne discosta. Buttiamoli degli argomenti prima disordinati e poi cerco di dargli un po' di ordine. Intanto il carattere di guerra simmetrica, che è un termine utilizzato dagli specialisti, più o meno diciamo tutta l'eredità che oggi si muove contro gli Stati Uniti, contro l'Occidente, contro l'Europa per certi versi, e che è in parte erede, questo va detto, del terzo mondismo antiimperialista, anche di rivoluzione marxista e anche militante e combattente, penso all'Africa, penso al Sud America, eccetera, solo in parte però, si muove su una posizione che è quella della guerra simmetrica. Perché qui occorre spiegare come mai accada che, voglio dire, anziché mobilitare una guerriglia di popolo, anziché fare quello che ha fatto Che Guevara o anziché quello che ha fatto i Viet Cong, si prendono dei kamikaze e li si mandano, come per esempio è successo l'altro giorno, dove dei muratori stanno aspettando dei pulmini che li portano a lavorare. Ovvero, guerra simmetrica vuol dire non posso affrontare il mio nemico su un terreno militare bellico puro come quello che lui mi vuole imporre. C'era un libro molto importante di due generali cinesi che ragionavano su questo aspetto, in Italia sono uscite molte meno suggestioni, i testi inglesi più intelligenti si interrogano su questo, perché evidentemente che come dire, la seconda divisione di fanteria americana è bravissima per affrontare cose tipo Iwo Jima, però se voi pensate all'Iraq nessuno, penso, avrebbe scommesso sul fatto che l'Iraq rimanesse ingovernabile. Dopo tutte le tonnellate di napalm cadute sul Vietnam, per il sentiero di Ho Chi Minh, come il Vietnam era giungla, eccetera, eccetera, credo che nessuno si aspettasse in effetti una dimensione del problema come questa. Invece il problema è particolarmente grave, nel senso che l'Iraq è non solo ingovernabile, è diventato un fronte. E invece prima non lo era, con Saddam Hussein non era un fronte, o meglio era un fronte solo nella testa di Saddam Hussein. Quindi primo punto, carattere nuovo di questo tipo di conflitto. Secondo punto, anche carattere nuovo di alcuni protagonisti, perché ragionando con una logica antiimperialista classica, i miei quadri politici e i miei quadri militari non li mando certo a sacrificarsi in quella maniera lì. Cioè, per formare un quadro ci vogliono 20 anni, se per di più un quadro combattente militare ce ne vogliono 25, e non posso certo permettermi dei miei 300, dei miei 3.000, dei miei 30.000, quello che volete, di sacrificarli in quella maniera. Quindi c'è un terreno di analisi da approfondire ulteriormente, mi sembrava, e io a questo terreno di analisi ulteriore arrivo un po' dallo studio delle mie repubbliche, in specifico la Cecenia, in specifico l'Uzbekistan, e in specifico questo tipo di repubbliche. Cosa accade dopo il 91? La desovietizzazione in realtà è solo di facciata, in realtà quello a cui si assiste è un insediamento al potere ancora una volta di ex segretari di partito, che poi era un partito sui generis per modo di dire, nel senso che molto spesso per esempio in Uzbekistan chi aveva in mano il Partito Comunista Uzbeko erano dei clan che avevano abbastanza poco a che fare col comunismo e col partito, perché significava semplicemente redistribuire flussi di ricchezza che o che arrivavano da Mosca o che erano gestiti da Tashkent, dal centro, verso rivoli clanici. Quindi dopo questa desovietizzazione si assiste al fiorire di una reislamizzazione dei costumi dal basso piuttosto marcata, che è una risposta di base intanto a una delusione per ciò che avrebbe potuto essere un estato, quindi al fatto che questo avrebbe dovuto segnare un momento di una nuova libertà, invece non è stato così, più o meno quello che sta accadendo anche se volete in Ucraina, cioè in Ucraina lo scenario non mi pare così diverso perché non si tratta di un paese islamico. Ebbene, questa reislamizzazione è sostenuta soprattutto dall'Arabia Saudita, con caratteri però di un certo tipo. Ora, In Arabia Saudita, che è uno dei paesi chiave in gioco, come il Pakistan, le cose sono complesse perché il modo di vedere le cose dell'ortodossia saudita è un modo particolarmente rigorista e particolarmente fondamentalista, ovvero l'Arabia Saudita, voi pensate che all'indipendenza dell'Uzbekistan esistevano 136 moschee nel 1991, nel 95 ne esistono circa 8.000. Stesso discorso per le madrasse, che sono scuole superiori islamiche, e così via. Piano piano, con una gestione del potere come quella di Cairo, cioè una gestione sostanzialmente corrotta, ma che è paragonabile a quella del Pakistan, a quella dell'Egitto, a quella di altri paesi che Al-Qaeda definisce come il nemico vicino. Uno degli obiettivi di Al-Qaeda è quello di colpire il nemico vicino, che viene soprannominato come il faraone, cioè il potere laico, quello impio, viene anche così ribattezzato. Bene, fatto sta che in questi paesi, quindi, quello che accade è che questa reislamizzazione fa leva su una delusione di vasti strati sociali. Pochi mesi fa c'è stata una grande rivolta nel Fergana, che non è da sottostimare perché è la prima volta che l'islamismo radicale riesce a mobilitare certi strati sociali in virtù di una miseria e di una povertà che in altre parti del Medio Oriente non ci sono. Cioè, per anni in Arabia Saudita, come dire, etouffé, si direbbe in francese, ha tenuto sotto questo malcontento a colpi di petrodollari. E quindi lavatrice, Rolls Royce, biancheria intima la perla, anche se sopra ti metti il velo, la perla, eccetera. In Uzbekistan questo gioco qui non è riuscito. E quindi soprattutto nella valle del Fergana, che è un punto molto sensibile, è uno dei punti più densamente abitati del continente asiatico, come dire, l'islamismo radicale ha avuto un grande successo. E questo successo si è mosso su parole d'ordine che travalicano le frontiere. Perché la percezione delle frontiere è una percezione di qualcosa di neocoloniale. Così come talvolta accade in Africa. Che so, se voi guardate le cartine delle frontiere della Libia, che sono tirate sui meridiani, sui paralleli o in vaste parti dell'Africa, vi rendete conto che molto spesso tragedie come quella del Ruanda o anche segmentazioni di potere come in Eritrea, ciò che hanno lasciato gli italiani, solo perché tuo nonno era degli ascari ausiliari italiani e il mio no. Quindi tu oggi hai il potere e il mio oggi non lo è. Qui c'è anche questa eredità coloniale che ne fa parte. Comunque, per tornare a questi paesi, ciò che accade è che quindi questa reislamizzazione si basava e si basa tuttora oggi su due richieste di fondo, che sono piuttosto vaghe, ambigue e anche velleitarie per certi versi. Una è quella della instaurazione della Sharia e l'altra è quella della restaurazione del califfato, che sono entrambe, come dire, delle parole d'ordine che certo tutti si rendono conto benissimo, che sono delle parole d'ordine che non serviranno certo a migliorare la propria condizione di vita, che però funzionano come delle specie di cunei nei quali vengono risucchiate, come dire, le delusioni e i desideri delle persone, tipo oggi sono povero ma un giorno che ci sarà la Sharia io non morirò più di fame. Questo è un po' il ragionamento, ed in Pakistan questo discorso, faccio un esempio per tutti, in quasi nessuno di questi paesi lo Stato ha in mano la leva fiscale, perché la leva fiscale viene controllata dalla madrasa attraverso la zakat, che è un obbligo religioso, e quindi il denaro raccolto con questo obbligo religioso viene redistribuito dagli imam delle moschee e quindi viene utilizzato come meglio si ritiene. Ora, mi sembrava indicativo quindi il fatto che queste parole d'ordine siano anzitutto transnazionali, perché la richiesta di applicazione a Sharia è una cosa che coinvolge la Umma, e quindi la comunità dei credenti, e travalica completamente quelle che sono delle frontiere che vengono percepite come una banale costruzione coloniale. In secondo luogo, la stessa restaurazione del califfato vi ricordo, viene abolito da Ataturk nel 23 in Turchia, che è anche un altro dei nostri problemi, nel senso che se il mondo sunnita avesse qualcosa di simile a un papa, in specifico il califfo, cioè il successore di Maometto, ci sarebbe comunque un califfo che dice questi di Al-Qaeda fanno bene oppure fanno male, oppure questo è quello che bisogna dire, eccetera. Che è una funzione che fino ad alcuni anni fa ha svolto la moschia più importante dal punto di vista del prestigio, che era la moschia di Al-Azhar al Cairo. Evidentemente oggi la situazione che si vive nel mondo islamico è una situazione per cui nessuno dice a nessun altro tu non puoi dire questo oppure è sbagliato dottrinariamente. E infatti qui mi sembra che l'elemento nuovo di queste ultime settimane, piuttosto palese, ma che si trascina da diversi mesi, sia la guerra totale nei confronti degli sciiti dichiarata dai sunniti, che è un'altra di quelle frontiere invisibili che, come dire, penso che l'unico libro disponibile sugli sciiti di Iraq sia quello di Willy Gruber, che va onore a Willy Gruber di aver fatto un libro simile perché mancava, eccetera, eccetera, che però risente molto di un carattere giornalistico. Ora, prendere a colpi di mortaio un posto chiamandolo un bastione di apostati e poi spargere la voce che ci sono i kamikaze in giro, provocando 1000 morti, soprattutto donne e bambini, è un livello che l'altro ieri Sant'Egidio ha cercato di disinnescare con la parola d'ordine del fatto che nessuna guerra è santa. Purtroppo noi capiamo benissimo che esistono due livelli, c'è un livello della guerriglia, del terrorismo politico che ha certi obiettivi e procede razionalmente, questo è già un livello razionale in cui, come dire, i danni sono di carattere molto diverso, perché se si ha la convinzione di andare direttamente in paradiso facendosi esplodere, appunto, come dicevo, laddove i muratori vanno a cercare lavoro, qui non so dove cercare, dove cercare scampo, diventa piuttosto difficile. Comunque questa frontiera tra sciiti e sunniti, che poi ricordiamo, gli sciiti sono la maggioranza in Iraq, una dei conti non fatti dai neocons americani nel progetto di Building the Nation, era che se si dovesse andare a delle elezioni pure e crude, se tutti dovessero andare a votare, comunque il paese sarebbe nelle mani degli sciiti. E questo è stato per 20 anni il tabù degli Stati Uniti. Vi ricordo che dal periodo in cui appunto gli ostaggi americani dell'Università di Teheran, una era la direttrice degli Stati Uniti ed era appunto quella di impedire all'Iran un suo debordamento internazionale. Da un certo punto di vista questo era impossibile, nel senso che le uniche proiezioni possibili degli sciiti iraniani erano appunto gli sciiti iracheni e gli Hezbollah in Libano. Però ha fatto scuola quel modo, se la rivoluzione iraniana del 79 probabilmente è riuscita a diffondersi per altre vie, e quindi oggi ci troviamo su questo livello. Io penso, tutto sommato, che una rivista come questa sia importante perché pone dei momenti di riflessione rispetto ai quali noi non abbiamo molti altri stimoli. Abbiamo delle cronache giornalistiche fatte abbastanza male, nelle quali però si perde la riflessione storica. Cioè, se oggi dico che sono morti 965 persone su un ponte, fra tre mesi siamo di nuovo qui e ne muoiono altre 400 oppure altre 170, e alla fine tutta questa cronostoria che facciamo degli ultimi avvenimenti non ci aiuta a ragionare come un prisma sui motivi, sulle cause profonde. Penso che invece questa rivista abbia valore, nel senso, proprio perché cerca di aggredire al centro alcuni nodi, di darci gli utensili, gli strumenti per capire come mai questo sia accaduto. Il discutere di fronti e frontiere, quando nel secolo passato abbiamo visto che ci sono state guerre perse per il fronte interno, comunque la gestione più difficile anche per gli Stati Uniti del Vietnam è stata sicuramente quella del fronte interno. Il discutere di forme del combattente, il kamikaze, potremmo metterci i freedom fighters di Angoliana Memorial, di Savimbi, eccetera, eccetera, aiuta a ragionare sul dislocamento che abbiamo oggi anche di un certo tipo di lotta sedicente, a questo punto mi tocca dire, anticoloniale. E quindi ci aiuta sul piano che della riflessione individuale, nel senso che io penso che con questa rivista siamo un po' meno soli davanti alla cronologia di sangue che tutti i giorni ci aggredisce.